Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi, ahimè, il tema anche di questa puntata, fermo restando che ormai tutte le indicazioni che stanno arrivando, perlomeno da un punto di vista economico, ci fanno intendere che bisogna armarsi di grande pazienza in questo momento. Quindi, al di là delle critiche che ho mosso, non vi voglio tornare su dichiarazioni da parte delle istituzioni a qualunque livello, a mio avviso mal gestite, in alcuni casi improvvide. Adesso il problema delle imprese, di questo ci occuperemo oggi, è intanto il problema più grosso di tutte le imprese, a partire da quelle turistiche, dove le cancellazioni stanno riguardando, lo dico con buona pace di Musumeci, purtroppo anche la Sicilia, anche i grandi gruppi alberghieri siciliani, non si fa o si fa molta poca distinzione all'estero tra Nord Italia, aree interessate al focolaio e il resto del paese. Ma il vero problema in questo momento è l'orizzonte temporale, cioè di solito di fronte alle crisi, penso alla crisi dell'11 settembre 2001, quando furono bloccati i voli per 3 settimane, e intanto riguardavano alcuni settori, non altri, ma soprattutto penso anche alla crisi finanziaria del 2008-2009, si iniziava a ragionare sulla prospettiva, quanto durerà il tempo, le misure, le strategie o anche semplicemente le tattiche da adottare. Qui il problema vero è chiaramente l'orizzonte temporale, non siamo ancora in grado di capire se la gestione riguarderà alcune settimane, quindi poi si possa mettere in campo tutto un insieme di misure di cui oggi parleremo per recuperare l'attività persa oppure no. E da questo punto di vista oggi continueremo il viaggio nei vari settori produttivi che stiamo facendo dal lunedì scorso, e sarà la volta del settore alimentare, perché il turismo, inteso come agenti di viaggio, inteso come alberghi, inteso come anche Airbnb, è sicuramente stato il primo e quello che sta registrando i colpi più forti, però c'è anche il settore alimentare che, in maniera paradossale, lo dico perché insomma le merci non trasmettono il coronavirus, ma ahimè si sta creando un boicottaggio non solo sugli italiani all'estero, non solo sui turisti che dovrebbero venire in Italia, ma anche sulle merci italiane all'estero, a partire da quelle di carattere agroalimentare. E poi c'è il timore che il ruolo, ahimè, che l'Italia ha assunto a livello mondiale nella percezione della diffusione del coronavirus vada a danneggiare anche l'immagine stessa del Made in Italy. Qualcuno può sorridere, però attenzione, poi lo racconteremo quasi più come elemento di colore, se pensiamo che sono crollate le vendite della birra Corona, perché il nome viene associato, diciamo, al coronavirus, e ovviamente non c'entra una beata nulla, immaginate se non si debba ragionare su un danno d'immagine complessivo del paese, che pure sta rispondendo molto bene come strutture sanitarie e quant'altro, però in quello che è appunto il Made in Italy, da sempre sinonimo di grande qualità e, insomma, il vivere italiano. Di questo parleremo, così come parleremo dei consigli che i consulenti danno agli imprenditori di qualunque settore in questo momento, cioè in questa attesa continua, in questo presente, diciamo, che non diventa mai un futuro. Il rischio è attendere e non fare nulla, e allora quello che ci sembra importante dire è che delle volte all'interno delle stesse imprese, quando non erano in difficoltà prima e quando non vengono da una difficoltà pregressa, forse è importante utilizzare questo periodo di chiaramente di bassa attività, di sospensione, di telelavoro, di ordini che non arrivano, per fare qualcosa, almeno per dare una proiezione di futuro. Se no qui continuiamo a vivere in un eterno presente in cui ogni mattina ci svegliamo con il bollettino e non si riesce mai a organizzare una, non dico una visione perché sarebbe anche eccessivo, ma un qualcosa, un'attività che possa produrre qualcosa nelle prossime settimane, visto che bisogna stare con i nervi molto saldi e, ripeto, l'orizzonte temporale continua a mutare. Qualcuno mi scrive che sta volando a New York per Wine Events. C'è il rischio che blocchino i voli di ritorno? Non lo so, dipende da dove. A me risulta che in parte sono già bloccati per alcune compagnie aeree. Comunque, Ancora, per quello che riguarda il tema, appunto, lo affronteremo sia con chi rappresenta il mondo alimentare che con chi dà i consigli e fa consulenza in questo momento agli imprenditori. Poi invece le misure del governo, perché 3 miliardi e 600 milioni che l'Italia punta ad avere in deroga, sono più o meno lo 0,2% del PIL. L'obiettivo è approvare entro venerdì un secondo decreto che stanzi risorse per misure come il credito d'imposta per le aziende danneggiate, le riduzioni di tasse, sostegno al turismo e alla sanità, cassa integrazione in deroga, esoneri contributivi per i settori più colpiti. Faccio notare, e poi dovrebbe arrivare, come ha annunciato il Premier Conte, un terzo intervento più sistematico per l'intera economia e l'anticipo anche di una richiesta dell'Unione Europea di farsi carico di un piano coordinato dell'Unione. Io un suggerimento ce l'avrei, però insomma, io mi chiedo, ma se l'anno va così, e tra l'altro la cosa che preoccupa molto gli operatori, a partire da quelli turistici, è che questo si è abbattuto a inizio anno, quando tu non hai ancora fine in cascina, dovevi iniziare a fatturare per l'anno, non che sia bello perdere fatturato a novembre e dicembre, ottobre-novembre, però è chiaro che anche tutti gli investimenti che hai fatto, i ritorni sugli investimenti, ti vengono a mancare proprio all'inizio anno. Ma dicevo, io avrei una piccola proposta, ma sospendiamo sto cavolo di Fiscal Compact per l'anno 2020, cioè perché dobbiamo andare a trovare per un accordo fatto in altri tempi 23 miliardi mal contati per evitare l'aumento dell'IVA? Voglio dire, utilizziamo quei soldi per altro, magari anche per aumentare il 10% dei tagli che abbiamo fatto nelle strutture di rianimazione, di terapia intensiva in questo paese. Perché insomma, sì, chiederemo all'Europa una deroga, non solo i 3 miliardi e 600 milioni, ma ripeto, abbiamo da preparare una finanziaria che per buona parte viene mangiata dalle clausole di salvaguardia. Oddio, visto quello che sta succedendo, forse le clausole di salvaguardia si potrebbero anche sospendere, o facciamo finta che invece il ragioniere, diciamo, europeo non viva nel contesto in cui viviamo noi. E dopodiché vedremo quello che capiterà agli altri paesi. Io non sto tifando perché il coronavirus si sviluppi in altri paesi, sono mica, dico solo che attenzione a pensare o a descrivere l'Italia come il grande untore. Vedremo col tempo cosa succederà. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dai mercati. Oh, mi scrive uno scrittore: bravo, il debito lo paghi tu dopo. Ma non so, immaginando che questo casino e danno economico del coronavirus non si riduca e non si, diciamo, ricomponga nell'arco di qualche settimana, secondo lei il problema è il debito o è il tenere in piedi il paese? Non so, perché mi sembra quasi che forse non stiamo capendo la portata che rischia di avere dal punto di vista economico l'effetto coronavirus. Non so, tanto voglio dire, se salti per aria il debito non lo ripaghi comunque, quindi meglio forse cercare degli elementi a favore della crescita che non stare a rispettare il Fiscal Compact scritto, diciamo, nel 2011-2012, quando l'Italia era il problema dopo Grecia, Portogallo e Spagna, scritto su matrice, su dettatura tedesca, dai. Comunque andiamo con la borsa, meno 1,30% Milano ed è l'unica negativa tra le borse europee. Parigi guadagna poco, Francoforte guadagna poco, lo 0,2%, Parigi lo 0,8%, Londra più 1%, Dow Jones più 2,20%, euro su dollaro 1,11%. Devo dire che oggi anche lo spread italiano è tornato a salire in maniera significativa, 185 punti, siamo ai massimi dall'agosto del 2019, numero uno, o meglio commissario economico Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economico monetari, su questo ha detto: la reazione dei mercati è fisiologica. Credo che gli spread non siano ancora tornati ai livelli di due o tre mesi fa, quindi credo che si tratti al momento di una reazione come si può dire, inevitabile, normale nei mercati, no? Quando c'è un momento di difficoltà, alcuni movimenti verso bund tedeschi o francesi sono abbastanza ovvi e comprensibili e non mi pare al momento che abbiano dimensioni allarmanti. Certo, la situazione va monitorata, ma al momento mi sembra una reazione fisiologica più che patologica. Dunque, mi scrive un ascoltatore: ma ti rendi conto che ogni anno è una scusa per non rispettare gli impegni con l'Europa? Non mi sembra proprio. Anche il governo giallo-verde fissò il deficit al 2,04%. Non mi sembra, se devo dire, un paese che da anni è sopra il 3% si chiama Francia, non si chiama Italia. Dopodiché, primum vivere de inde filosofare. Allora, a me interessa in questo momento che non chiudiamo l'anno con un meno 2, meno 3% come ho visto in alcune proiezioni. Tutto quello che ci porta a non avere un'economia di nuovo, non in frenata, ma da guerra, a me va bene. E se c'è da aspettare sul fiscal compact, chi se ne frega, voglio dire, non è per questo. Se qui il danno rischia di essere anche superiore a quello che noi riusciamo a stimare, non so. Poi veniamo a parlare della riforma del patto di stabilità, tutte queste bellissime cose che appassionano molto i ragionieri europei. In questo momento, poi per carità, qualcuno scrive forse un piano europeo sarebbe l'unica soluzione. Benissimo, ho visto un'intervista all'ex ministro Tremonti che condivido al 100%, lo inviteremo anche nei prossimi giorni. Eurobond e quindi finanziamenti di carattere europeo per le infrastrutture, fare ripartire le infrastrutture. Cioè, se io devo prendere come riferimento la crisi del 29, la famosa crisi del 29, da lì se ne esce solo facendo grandi investimenti pubblici, facendo ripartire. Per cui, no. Poi uno può anche dire che è importante stare sotto il 3%, ma de che? Dopodiché qualcuno mi dice: ma non è che noi abbiamo fatto più tamponi rispetto agli altri? Sì, è una polemica che abbiamo già affrontato a venerdì scorso. Noi avevamo fatto 10 volte il numero di tamponi di Francia e Germania messi assieme. Quindi temo per i francesi, i tedeschi, che il fatto che abbiano pochi casi sia dovuto anche al basso numero di tamponi utilizzati. Mi scrivono i tassisti che anche loro nella zona di Milano e Lombardia sono in ginocchio. Sì, ho potuto testimoniare anch'io la cosa, e molti albergatori mi fanno notare, ed è verissimo, che il problema non è tanto il timore che hanno, sono albergatori di strutture di montagna, quindi diciamo che aspettavano adesso i turisti stranieri, soprattutto per le settimane bianche, che il problema non è tanto la paura che hanno questi turisti, è che hanno la paura di non riuscire a rientrare, in particolar modo gli inglesi, a casa loro. Quindi non è tanto la paura di essere contagiati mentre vai a sciare, mettiamola così, ma il tema su come faranno rientrare, in questo caso mi scrivono gli albergatori della Gran Bretagna. Questo è poi anche il tema ulteriore. Comunque andiamo avanti con i titoli. Dicevo della borsa: meno 1,37, Bene Eterna più 1,30, Nexi più 1,20, Era più 0,80, Snam più 0,60, Enel. Eppure male oggi tutti i bancari e anche la Juventus, perché il mondo del calcio è in un casino totale, cioè, posso anche capire come organizzare il campionato. Allora, Banco BPM meno 6%, Buzzunice meno 5,60, Biper meno 5,40, Juventus meno 5, Prisma meno 4,70, Unicredit meno 4,60, Ubi meno 4,5, Ferragamo meno 4, Amplifon meno 3,80 come Poste Italiane, Fineco perde il 3,5% come Mediobanca, Fiat Chrysler perde il 3,30% come Unipol e Intesa San Paolo. E qua mi fermo. Allora, altre notizie in breve. La Banca Centrale del Giappone, la Bank of Japan, è pronta a garantire la stabilità dei mercati giapponesi. Il Giappone è un altro paese molto provato e alle prese con il coronavirus. Oggi però faccio notare che, contrariamente a come va la borsa di Milano, Shanghai ha chiuso con un più 3,15% e Shenzhen più 3,77%. Quindi forse anche scommettono su nuove mosse della banca centrale cinese. Ancora, per quello che riguarda la parte di carattere internazionale, la Banca Centrale Europea ha fatto sapere di essere pronta a ricalibrare tutti gli strumenti a seconda dei casi per garantire che l'inflazione salga verso l'obiettivo. Il mercato comunque crede che vi sarà un taglio a breve dei tassi di interesse di Federal Reserve e Banca Centrale Europea. La IATA, quindi l'Associazione Internazionale di Trasporto Aereo, sta chiedendo di sospendere la normativa che regola la gestione degli slot, perché dice sostanzialmente il coronavirus ha avuto un grave impatto sul traffico aereo e c'è un crollo della domanda di carattere internazionale. L'OCSE stesso parla del più grave pericolo dai tempi della crisi finanziaria, quindi 2008-2009, ed espone l'economia mondiale a una minaccia senza precedenti, tant'è che ha tagliato l'OCSE la stima sulla crescita globale al 2,4% e quindi sostanzialmente contro il 2,9% del 2019, ha tagliato di mezzo punto percentuale le stime della crescita globale rispetto a novembre. Veniamo all'Europa. Mercoledì ci sarà un colloquio tra i ministri dell'economia del G7, quindi non solo chiaramente l'Europa, lo ha annunciato il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire. E poi la Commissione Europea ha presentato il Corona Response Team, una task force per affrontare l'emergenza. Fanno parte i commissari europei Gentiloni, Lenaricic, che gestione crisi, Johnson, gli interni, Krikides, salute, e Valean, trasporti. Restando in Europa, la banca centrale inglese, Bank of England, è pronta a misure per la stabilità. In Francia l'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia francese, per dichiarazione dello stesso ministro dell'economia Bruno Le Maire, sarà più forte e più significativo rispetto allo 0,1 inizialmente stimato. Segnalo che in Francia al momento ci sono 130 casi e 9 gravi, di cui 2 morti. Macron ha annullato ogni altro impegno, ha annullato il Salone del Libro di Parigi, il Louvre, come ricordavano i nostri GR24, resta chiuso. Veniamo agli indicatori di carattere europeo. L'indice dei responsabili acquisti europei manifatturieri, il PMI, è salito comunque a 49,2 punti, anche la parte in Germania soprattutto da 45,3 a 48 punti. In Italia è sceso un po' a 48,7 punti. Infine l'Istat certifica un PIL che nel 2019 è cresciuto solo dello 0,3%, la crescita più bassa del 2014. Il debito resta al 134,8% del PIL. Il deficit è sceso all'1,6%, in netto calo rispetto al 2,2% del 2018 e anche inferiore al 2,2%. Ecco perché dico, in questo momento non è il deficit o il rispetto dei parametri di Maastricht il nostro problema nel Fiscal Compact, anche perché nessuno immagina che i 3 miliardi e 600 milioni messi a disposizione dal governo, poi vedremo, lo 0,2% del PIL, possono bastare se continua in questo modo il danno economico creato dal coronavirus. E comunque l'Istat ha fatto notare che c'è un contributo positivo dell'estero, quindi nel 2019, delle esportazioni, e c'è stato anche un calo delle importazioni. Andata male l'industria nel 2019, hanno tenuto i servizi e in rialzo le costruzioni. Sentiamo su questi dati al microfono della nostra Anna Marino Ludovico Bracci Testasecca, che è direttore della contabilità nazionale dell'Istat. L'economia italiana nel 2019 ha segnato un forte rallentamento, perché la crescita, che era dello 0,8% nel 2018 e dell'1,7% nel 2017, è stata soltanto dello 0,3%. Ci sono anche dei dati che mostrano alcuni miglioramenti, sono solo temporanei? Il miglioramento lo vediamo nei dati del conto delle amministrazioni pubbliche. A questo risultato si è arrivati attraverso una dinamica differenziata tra le entrate e le uscite pubbliche. Le entrate sono aumentate del 2,8% e le uscite sono aumentate dell'1,6%. rapporto deficit-PIL sicuramente è il livello più basso dal 2007. Indubbiamente questo è un dato sicuramente migliore, è stato molto più forte l'aumento delle entrate rispetto a quello previsto. Anche la pressione fiscale sale, questo è comunque un dato che pesa? La pressione fiscale è salita nel 2019 al 42,4% del PIL rispetto al 41,9%, e questo ha risentito dell'aumento delle imposte e dei contributi sociali. Giù l'industria, tengono i servizi, ecco, dal punto di vista proprio delle famiglie, le imprese, quali sono i dati da segnalare? Il quadro che è emerso è quello di una debolezza della domanda interna. Per quanto riguarda i dati settoriali, con una dinamica molto debole dei servizi che sono aumentati dello 0,3%, le costruzioni sono andate bene perché sono aumentate del 2,6% il valore aggiunto, mentre abbiamo registrato una contrazione nella manifattura dello 0,5% e nell'agricoltura, silvicoltura e pesca dell'1,6%. Allora, continuiamo il viaggio anche questa settimana nei settori produttivi e parliamo questa volta del mondo alimentare. Perché? Perché abbiamo fatto, come ricordavo, in primo luogo i settori subito colpiti, turismo in primis, settore alberghiero, viaggi, organizzazione dei viaggi, però c'è una cosa che a me manda nei pazzi, come dicono a Firenze, perché delle poche cose che abbiamo capito di sto coronavirus è che non si trasmette con lo scatolone, con la bottiglia d'olio, con il pacco di pasta. No, ora sentite questa. Allora, venerdì scorso il grana padano potrebbe essere tra i prodotti made in Italy penalizzati dalla psicosi coronavirus. La Grecia infatti ha bloccato l'export delle forme di formaggio prodotto a Cremona. E per evitare l'embargo è necessario un certificato per dimostrare che le forme di formaggio sono virus free. Ma io non lo so, ma che cosa fanno? Glielo chiedono? E quindi esenti dal contagio di coronavirus. E questo rischia di poi di avere un effetto a catena. Poi i produttori di vino di Voeuganeo hanno detto ci rispediscono le bottiglie di vino perché temono di essere contagiati. Ma voglio dire, ma come ha fatto il coronavirus a entrare dentro la bottiglia? Poi la qualità del vino di Voeuganeo non lo conosco, ma la fiera del vino di Chengdu è saltata, quella è una cosa diversa perché tutti i luoghi ad alto assembramento, tutti gli eventi ad alto assembramento stanno saltando, gli organizzatori parlano di giugno-luglio, ricordo che il Vinitaly invece ha confermato metà aprile e anche il Cibus di Parma. La manifestazione Van Expo Hong Kong 2020 è rinviata a luglio, da metà maggio, fine maggio a luglio, data che comunque verrà confermata all'inizio di marzo. Insomma, si sta scatenando un effetto anche sui prodotti e non solo sulle persone. E cito il caso che a me ha fatto più così sorridere per non piangere. Ora, i produttori della birra Corona, lo storico marchio messicano che è di proprietà del gigante delle birre Anheuser-Busch, ha lamentato un crollo delle vendite, 285 milioni di dollari di ricavi in meno nei primi due mesi, perché tutti associano il coronavirus alla birra Corona. Guarda che c'è stata un'indagine fatta da migliaia di bevitori, e il 40% degli americani non acquisterebbe Corona in nessun caso a causa dell'epidemia, e un altro 14% non ordinerebbe una Corona in pubblico. Qui c'è il coronavirus che sta, diciamo, devastando il pianeta più ancora del coronavirus. Comunque, Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti S.p.A., nonché presidente di Centromarca, che riunisce che è l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca. Buonasera. Buonasera a tutti. Mutti non è un'omonimia, lei produce anche una passata molto passata, non solo quella, produce anche passata di pomodoro molto conosciuta, ma lei mi interessa sia come amministratore delegato della Mutti, ma soprattutto come presidente di Centromarca. Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza perché ho il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ospite nostro Francesco Mutti, appunto amministratore delegato della Mutti e presidente di Centromarca. Allora, mi dica una cosa, Mutti, sia come numero uno di un'azienda molto importante nella produzione di passate, pomodori, che come presidente di Centromarca, paradossalmente l'assalto ai supermercati, ahimè, io l'ho trovato una follia, l'ho detto la lunedì della settimana scorsa, però dovrebbe avere in qualche modo creato l'effetto opposto per chi vende prodotti di marca o anche non di marca, diciamo prodotti alimentari, o no? Cioè rispetto a quello che stiamo vedendo nel turismo, nei viaggi aerei, nei taxi, in tutti i settori, nelle fiere, in tutti i settori collegati. Voi a me avete avuto l'assalto agli scaffali, no? Sì, è un effetto momentaneo e come tale lo dobbiamo leggere, si tratta di un accaparramento, riteniamo che a brevissimo questo verrà riassorbito. Il vero punto importante è avere un sistema economico sano, perché questo genera consumi. Una punta legata ad alcuni giorni in cui si fanno performance particolarmente elevate non è quella strutturale, fondamentale per il sistema competitivo italiano. Senta, ma quello che invece raccontavamo sul rischio che possa estendersi anche alle merci, qualcuno mi scrive, è vero, altri fanno battute anche spiritose, ma adesso non ho tempo. Voi lo vedete, perché voi avete fatto nel 2019, voi dico come export italiano del settore agroalimentare di cibo, 44 miliardi e 600 milioni, e con una crescita buona dovunque, e con il vino prodotto più esportato, poi insomma due terzi vanno in Europa, più 3,6%, insomma anche l'anno scorso il settore agroalimentare di cui lei è un rappresentante è andato molto bene. Temete che si possa estendere in maniera folle, a mio avviso, sui prodotti oppure no? È assolutamente folle, ma ci possono essere dei rischi. Nella misura in cui noi continueremo a parlare, a sovralimentare la percezione di questo fenomeno, il rischio di un'alea, di un rischio, di una zona grigia legata a quello che è il Made in Italy può nascere e può crescere presso i consumatori verso l'estero. Già abbiamo visto dei fenomeni, sono stati richiesti dall'Australia delle certificazioni di Corona Free, quindi veramente degli atteggiamenti schizofrenici. Consideriamo che molto spesso viene richiesto più di un mese di trasporto ai prodotti per raggiungere l'altra parte del mondo via nave, quindi stiamo veramente parlando di qualcosa che potrebbe danneggiare, come si diceva prima, c'è stato un picco di vendita, ma quello su cui dobbiamo costruire è una credibilità e solidità del sistema Italia. Allora, su questo qualcuno mi dice, dottor Mutti, ma il governo italiano magari non subito, perché stiamo ancora gestendo l'emergenza, ma insomma appena possibile dovrebbe improntare una campagna di comunicazione per far capire che i prodotti nostri, non a caso il Made in Italy è un elemento di qualità, ed ecco, e connotava e connota la qualità, far capire anche come, con che attenzione produciamo nel settore agroalimentare, non solo in quello meccanico, e quindi che livelli di sicurezza abbiamo, perché i nostri prodotti hanno, diciamo, non abbiamo mai avuto uno scandalo alimentare in questo paese dai tempi del metanolo, che riguardava due banditi, ma insomma e poco altro. Secondo lei è necessario iniziare a ragionare fin da adesso, e poi vedremo quando svilupparla, chiaramente non te la bruci ora, una campagna di comunicazione verso l'estero e quindi coinvolgendo ICE non solo? Senz'altro il sistema italiano è uno tra i più controllati, forse il più controllato al mondo. Questo è uno tra i pilastri, le garanzie del Made in Italy, della qualità del Made in Italy. Probabilmente per quanto riguarda il coronavirus, forse l'elemento cardine è smettere di parlarne o di parlarne in modo serio, chiaro e pacato. Per quanto riguarda una campagna a sostegno del Made in Italy verso l'estero, credo non vada tanto improntato appunto sull'assenza del coronavirus, perché non si trasmette tramite le merci, ma valorizzare costantemente il nostro sistema paese. Dunque, resti con noi, perché ho in collegamento invece chi anche per lavoro fa da sempre quello che si chiama in americano coaching, quindi diciamo consulenza per gli imprenditori, manager e imprenditori, e in questi giorni deve affrontare un tema nuovo, nonostante diciamo l'analisi comportamentale e quant'altro. Carla Ciani, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto mi dica una cosa, Mutti, prima di passare alla Ciani, ma nella sua azienda, perché voi quanti dipendenti avete in Italia? In Italia abbiamo circa 300 dipendenti. Come si è mosso in questi... Abbiamo un po' di smart working, ma abbastanza poco, perché siamo abbastanza produttivi e naturalmente la parte di produzione non può essere effettuata se non direttamente nello stabilimento. Qui c'è un tema molto molto rilevante, che è quello legato al rischio che un contagio provochi la chiusura per 2 settimane di uno stabilimento. Sono dei rischi enormi, si rischia un danneggiamento profondo e non ricostituibile dell'intera filiera. Quindi una grandissima attenzione, perché l'eccesso di protezione a volte può creare grandi danni. Sì, anche se però dobbiamo attenerci a quelle che sono le regole, nel senso che se c'è un infettato vale anche per la D24, dove abbiamo già approntato un piano B nel caso dovesse succedere qualcosa, però è ovvio che nessuno se lo può né augurare né immaginare. Allora, Carla Ciani, volevo capire una cosa, visto che lei di solito fa consulenza, coaching, insegna ai manager e ai ministri legati come parlare in pubblico, come affrontare anche il rapporto con i dipendenti, in questi giorni che cosa le chiedono più di altro? Perché immagino che vi sia anche uno smarrimento di un presente che non finisce mai, prego. Sì, in effetti quello che mi chiedono è come rispondere a questo stato di appunto smarrimento, quasi appunto di trauma, no? E purtroppo le condizioni traumatiche lasciano tristezza e paura, e sono due emozioni che immobilizzano, quindi lo sforzo è quello di portare le persone a considerare che la cosa peggiore da fare in questi momenti è stare nella immobilità, in un'attesa, diciamo, passiva, ecco. Però io mi metto anche nella testa di un imprenditore, un manager, in questo momento non hai orizzonte, che è quello che ci dicono tutti i nostri ospiti, non riesci ad avere un orizzonte, non capisci se questa cosa possa rientrare in 1, 2, 3 settimane o se fra 2 mesi saremo ancora qui a... E come fa a dire lei, cioè, non essere passivo? Cioè, quale consiglio viene dato a questo punto? Sì, significa utilizzare proprio questo tempo di attesa e di incertezza, proprio perché non si sa quanto questa attesa potrà durare, per rafforzare, diciamo, quello che l'azienda ha al suo interno, con un orientamento a un miglioramento che potrebbe essere in realtà molto difficile da realizzare in contesti, diciamo, di normalità. Mi fa un esempio? Faccio un esempio. Allora, uscire dalla immobilità significa lavorare all'interno, fare delle cose internamente, impegnarsi. L'orientamento al fare riattiva sempre delle energie, il fare porta anche a guardare al futuro, quindi tutte quelle cose che per una questione di tempo, per esempio, non sono state o considerate o ben seguite o organizzate, ecco, adesso è il momento di riattivare questo di ma le dice da una maggiore produttività e efficienza interna al rapporto? Sì, più che produttività, proprio una riesame un po' di tutte quelle condizioni che, non voglio dire, sono state trascurate, ma proprio per motivi di tempo. Ricordiamoci che il tempo in questi ultimi anni è sempre stata la risorsa più preziosa. Quindi, se ho ben capito, Ciani, lei dice a sto punto, piuttosto che non far nulla, restare in un'attesa perenne, meglio iniziare a impegnarsi internamente, perché in effetti Mutti, ognuno di noi, lo dico anche personalmente, lamenta sempre l'assenza di tempo, l'assenza di capacità di mettere la testa in mano sulle cose. Ora, se hai l'attività ferma, se ho ben capito il consiglio della Ciani, direbbe a questo punto inizia a progettare o a rivedere alcune cose che avresti rivisto comunque, magari non riuscivi ad affrontarle con il tempo sufficiente, perché ti dà un'idea di futuro e non solo di un eterno presente. Senz'altro una chiave prospettica aiuta a guardare in avanti, aiuta a superare un momento che, peraltro, ricordiamoci che per il 99,9% della popolazione non è particolarmente complessa, se non per un motivo di ansia. Probabilmente dovremmo diluire questa percezione odierna, comprendendo che è un virus, comprendendo che ci sono delle complessità, ma comprendendo che la vita assolutamente va avanti. Durante la guerra ci si sposava, si andava al cinema, si provava a fare qualunque cosa. Il coronavirus non dovrebbe essere l'elemento che stravolgerà le nostre vite. Gianni, nel salutarla, mi dà un esempio di un consiglio che ha dato concreto, cioè di qualcuno che si è trovato di fronte, mi ha detto: beh, in effetti potresti iniziare a occuparti di qualcosa che è sempre trascurato, visto che in questo momento l'attività, i fatturati, gli ordini non arrivano. Sì, certo, diversi, chiaramente a seconda della tipologia del cliente, ma per esempio le riunioni interne, quelle soprattutto interfunzionali, quelle di scambio e di confronto, possono essere gestite finalmente con un tempo corretto. Allenarsi alla ripartenza, che prima o dopo arriverà, ha a che fare anche con il rivedere determinate procedure interne. Ecco, per esempio, i miei clienti queste cose le stanno iniziando a fare, ma anche qualche esempio specifico, ho un cliente che mi diceva: guarda, sono diversi mesi che devo rivedere le politiche di credito, le condizioni di pagamento dei clienti, vediamole e adesso le rivedrò in ottica anche di prospettiva futura, no? Ci sono aspetti per esempio che riguardano la comunicazione, che sono estremamente importanti, perché la comunicazione interna in questo momento ha bisogno di molta efficacia, quindi informare i collaboratori, dare dei dati certi è estremamente importante, perché in un momento di incertezza, come dire, sociale, almeno all'interno dell'azienda abbiamo dei dati certi. E questo significa anche dare delle informazioni anche magari negative, ma dobbiamo sapere che in questo contesto anche un'informazione negativa è certamente più rassicurante del silenzio. Sì, qualcuno mi sta dicendo che leggo i messaggi che stanno arrivando, nel ringraziare da un lato appunto Carla Ciani e dall'altro anche il presidente Centromarca Francesco Mutti. Qualcuno mi dice: guardate che noi per esempio stiamo facendo dei corsi di formazione, che prima un tema classico, il corso di formazione, non si riesce, lo dico per esperienza, mai a farlo, è difficilissimo trovare il tempo senza... forse, io non sto dicendo che questa sia la soluzione, lo dico a chi mi scrive, sto dicendo che piuttosto che avere tutti in preda all'ansia e impallati e non fare nulla e stare lì a vedere se si sviluppa o no il contagio, giustamente, intanto iniziare a pensare cosa farai quando ripartirà l'attività e magari fare delle cose che non sei riuscito a sistemare in questi mesi, che ti portavi in arretrato, visto che oggettivamente c'è anche, mi dispiace, ma c'è anche più tempo. Grazie a ambedue, andiamo sul traffico e poi ritorno, l'avevamo sospesa la settimana scorsa, l'appuntamento con dietro la notizia, chiaramente anche dietro la notizia oggi si occuperà, diciamo, del coronavirus. Grazie Mutti e Ciani. Focus Economia. Dietro la notizia. Allora, torna Alessandro Paterotti, editorialista del Sole 24 Ore. No, mi sono bloccato perché giustamente alcuni stanno scrivendo, si ricordano dell'astrologa. La faremo tagliare e risentire, grazie a Mirti, che nel confronto annuale con Giovanni Tamburi, come ogni anno, predisse un gennaio catastrofico, perché dal 1578, se non ricordo male, non c'erano quattro pianeti allineati in Capricorno. Io lì per lì risi, devo dire che per quello che vale, certo gennaio non è stato esaltante a essere buoni. Allora, Alessandro Paterotti, fammi capire due cose. La prima è le banche centrali internazionali, tutti guardiamo molto le banche centrali, il mercato cerca di aggrapparsi alle banche centrali. Ho notato una certa prudenza. Allora, ci possono essere due possibilità. Il primo è non bruciare le cartucce già poche che hai subito, perché i tassi sono vicini a zero. E quindi probabilmente le banche centrali dicono: prima di sparare una delle poche cartucce che ho ancora, forse vorrei capire se tu condividi questa lettura. Dall'altro, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a mio avviso, spesso genera più confusione che altro, perché continuiamo a parlare di epidemia ma non pandemia. Anche oggi c'è la notizia, il virus si può contenere, ancora non è pandemia, però poi la stessa OMS ci dice si sta chiudendo la finestra per contenerlo, e a mio avviso questo aumenta la confusione, che è la peggiore delle variabili economiche. Alessandro, non si fanno patti col diavolo, ma rispondo per gradi. La prima tua domanda era quella delle banche centrali. Non c'è dubbio, se andiamo a guardare adesso i futures, cioè le aspettative di crescita, vedremo che il mercato si sta già aspettando 3 tagli di tassi di interesse entro la fine dell'anno, 3 non 1, 3, spostando addirittura la possibilità di un ulteriore taglio all'inizio del 2021. Questo che cosa si deve? Si deve dalla paura che la liquidità sparisca dal mercato, ovviamente, non perché la liquidità non ci sia oggi, tant'è vero che se andiamo a guardare i valori azionari, per quanto colpiti, sono ancora a livelli che sono superiori a quelli di un anno e mezzo fa, e non solo, le valutazioni restano alte, per cui il mercato fa il suo gioco, chiede denaro, ma col denaro non si curano le pandemie. Le pandemie si curano col denaro, nel senso spendendo per prevenzione e ricerca. E lì viene la questione, che è la seconda domanda, l'OMS. Per quale motivo l'OMS non dichiara la pandemia? Allora, tu hai dei dati freschi sul coronavirus, 3.000 i morti? Ti faccio aggiornamento, sì, dimmi. Te lo dico subito quanti sono a oggi, l'update. Ok, abbiamo 89.869 casi a ora, 3.069 decessi, 45.636 ricoveri. Allora uno dice, ce n'è abbastanza per una pandemia? Ma andiamo a guardare quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ci dice sostanzialmente che secondo il regolamento di emissione, questo riguarda i bond della pandemia, fra l'altro arriveremo al perché, le condizioni per distribuire fondi di aiuto per le pandemie a livello internazionale è legata, deve essere dichiarata dall'OMS, e vediamo al punto come. Allora, cioè l'OMS che deve dichiarare poi per le banche centrali, per tutti, dire se c'è una pandemia nel mondo. Allora, qual è la condizione della pandemia? Ci devono essere almeno 20 morti, 250 decessi in un paese e 20 in un ulteriore paese. Allora, ce ne abbiamo 3.600 di morti, non 200, e solo in Italia i morti sono già più di 30. Se andiamo a guardare, siamo oltre 360. Ma allora perché non dichiara la pandemia? Perché si fanno i patti col diavolo, con il mercato finanziario, e questo è il risultato. Nel 2017 la Banca Mondiale, d'accordo con l'OMS, ha lanciato un'obbligazione da 490 milioni legata alle pandemie. Qual è il trigger di questa obbligazione? Ovvero, che cosa farebbe perdere i soldi a tutti gli investitori? La direzione di pandemia. Se viene dichiarata una pandemia, chi ha investito su quei bond nel 2017 perde tutto il capitale. Ma dice, perché allora? Beh, questo è il problema. Il problema è che loro pensavano di fare altre missioni legate alle pandemie. Se se ne brucia una, ovvero viene dichiarata la malattia globale, e quindi gli investitori perdono i soldi, nessuno le compra più. Certo. Già oggi le stanno vendendo. Allora, è possibile che non venga dichiarata la pandemia per non disturbare il mercato finanziario? Questo è il dubbio che ormai sta circolando sui mercati. Tenete presente che la scadenza di queste obbligazioni è il 2020, 15 marzo, cioè tra 15 giorni. Cioè tu mi dici che sia tra il 15 marzo, dovesse... Quello che si sta dicendo sui mercati è che la pandemia sarà dichiarata dopo il 15 marzo per evitare di far perdere 450 milioni agli investitori. E questo è, diciamo... Ora vedremo, se sarà dopo il 15 vedremo la ragione se era questa. Ti dà anche la variabilità, siamo sulle definizioni stesse. Io devo dire che, col massimo rispetto per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma insomma, mi sembra che abbia peccato... Sta giocando, facendo un gioco strano legato evidentemente a dei fattori... No, perché che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botta. Allora, se non sai cosa dire, meglio star zitto. Abbiamo criticato i governatori lombardi, Veneto, per tante altre dichiarazioni, però pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è che stia scherzando. Per compensare con gli ascoltatori, attenzione, perché la dichiarazione di pandemia fa scattare completamente cambia completamente il sistema di aiuti internazionali. Mentre adesso cadono sui singoli paesi, la dichiarazione di pandemia farebbe scattare gli aiuti internazionali di tutte le organizzazioni a favore dei paesi colpiti. Questo oggi non è possibile, cade ognuno sulle proprie spalle. Allora, ma quale potrebbe essere il costo? E qui ritorniamo alla Banca Mondiale. Spulciando fra i loro studi, ho scoperto una presentazione a quei bond famosi della pandemia, in cui dicono, ma che cosa succederebbe se ci fosse davvero una pandemia che colpisce l'Europa? E qui veniamo a un altro aspetto che è grottesco, ovvero quello che la stessa Banca Mondiale pensa è che il danno sull'Europa legato a una pandemia da coronavirus sarebbero grosso modo 110,3 miliardi di euro. Allora, solo sull'Italia, e questo ve lo posso dare con certezza perché sono i dati loro, stimano che una pandemia potrebbe costare, dovrebbe addirittura, dicono loro, costare 8,043 miliardi l'anno. Sì. Tenete presente che il governo ha previsto 2,5. Sì, che è mezzo punto di PIL. Allora, grazie anche ad Alessandro Praterotti, che ritroviamo lunedì prossimo. Adesso andiamo sul GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Per la giornata della donna, vieni da Conad e aiutaci a sostenere i numerosi progetti dell'associazione DIRE, Donne in Rete contro la Violenza. Fino all'8 marzo scegli la nostra begonia a 3,90 €. Grazie a te, con un fiore, possiamo sostenere molte donne. Scopri di più su conad.it. Salita, discesa, collina, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, asfalto, pioggerellina, ina, pioggerellona, una, grandine, dritto, curva, alberi, sterrato, deserto, vento, aurora. Prova l'ibrida che ti farà scoprire ogni panorama. Nuova Subaru XV Boxer, Extraordinary Adventure. Scoprila in showroom o prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Imprenditore, i tuoi progetti sono in coda per mancanza di fondi? Accelera con Credimi Futuro, il finanziamento senza garanzie e senza vincoli. Scoprilo su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Ascolta, con Iveco Doppio Zero, il nuovo Iveco Daily Furgone è tuo con anticipo zero e tasso zero. In più, scopri i nuovi servizi di connettività avanzata e gli esclusivi vantaggi sui contratti di manutenzione e riparazione. Corri in concessionaria o chiama l'800-800-288 o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 marzo. Fogli informativi presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Nuovo Iveco Daily. Cambia prospettiva al tuo business. Focus Economia. Come on. 18:07 Dunque, devo dare alcune risposte agli ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666. Non abbiamo diffamato né avuto tesi cospirazioniste sull'OMS. Praterotti faceva notare che ci sono delle scadenze obbligazionarie legate alla pandemia della Banca Mondiale e che la pandemia può essere dichiarata solo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io ho detto che mi sembra che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità stiano arrivando in queste giornate indicazioni contraddittorie, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Non è ancora pandemia, però si sta esaurendo la finestra per le finestre per contenere il contagio. Per quello che riguarda invece l'intervento di Carla Ciani, ma io invece penso, alcuni mi hanno scritto che obiettivamente con un'attività ridotta in questo momento, vuoi perché ti mancano le componenti, vuoi perché non riesci, ti mancano gli ordini o non hai, molte imprese stanno almeno utilizzando il tempo per rivedere cose che avevano in programma e che non riuscivano a fare o che avevano posticipato, fare anche corsi di formazione, fare anche pianificazione diversa. Prima o poi sto cavolo di coronavirus finirà o comunque sarà messo sotto controllo e prima o poi l'attività economica ripartirà. Il problema è capire con quanti danni fatti nel poi, ma quindi l'invito è a non stare semplicemente in un'estenuante attesa che ti logora. Magari io penso che in ogni attività tutti noi lasciamo ogni tanto le cose a qualunque livello per mancanza di tempo, per altre priorità, tutto qui. Allora, la borsa e poi andiamo al piano del governo. Per quello che riguarda la Francia, mi chiedete, sì, la Francia ha ancora 130 casi, più o meno come l'avevamo messi noi domenica scorsa. Però detto questo, andiamo con la borsa, che oggi vede Milano unica negativa. Oh no, alla fine è chiuso negativa anche il Francoforte, meno 0,30. Però in maniera più significativa Milano meno 1,50%, Parigi più 0,40%, Londra più 1,13%. E bene la chiusura questa mattina delle borse cinesi. Vanno male oggi, particolarmente male a Milano, le borse, le banche, e qui c'è il tema spread, cioè lo spread che è volato a 185 punti in massimo da agosto. Come sempre il collegamento lo facciamo con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto ti leggo in diretta con te i dati sul mercato dell'auto. In Italia a febbraio meno 8,8%. Faccio notare che insomma a febbraio l'effetto coronavirus in Italia per fortuna non c'era ancora. L'esplosione del caso, ricorderete, venerdì 21 febbraio con i primi 21 contagiati nella zona di Codogno. Allora, negli 11 comuni, scusate, non voglio accusare solo Codogno. Fiat ha fatto meno 7,3%, però purtroppo tutti stimano che da marzo l'effetto del coronavirus sarà ancora più forte. Cioè, oggi male Milano per via dello spread, visto che vanno male soprattutto le banche: Banca BPM meno 6,30, UBI meno 5,40, BPER meno 5,40, Unicredit meno 4,40 e poi Intesa meno 2,80. Beh, sì, sicuramente va fatto un discorso un po' settoriale per l'Europa. A livello proprio europeo il comparto bancario è quello che è andato peggio. Come sappiamo, su Milano il peso del comparto bancario è superiore rispetto ad altri listini, quali per esempio Parigi e Francoforte, e quindi il FTSE MIB è risultato il peggiore d'Europa. FTSE MIB, che ricordiamo, oggi era arrivato a perdere oltre il 3%. Sì. Poi lo sprint di Wall Street sulle parole di Trump, che ha invitato la Fed a tagliare i tassi, le Big Pharma a trovare un vaccino molto velocemente per il coronavirus, ha spinto il Dow Jones, che in questi minuti, pensate, si sta avvicinando a un rialzo del 3%. A Milano giù tutte le banche, Banco BPM perde il 6,3%, UBI Banca il 5,5%, B per il 5,4%. Ricordiamo che sulle banche pesa anche il possibile allarme lanciato un po' da vari operatori sul fatto che gli effetti del coronavirus sull'economia possono tornare a far nuovamente lievitare, con una crisi dell'economia, le sofferenze creditizie da parte delle aziende. Questo per quello che riguarda appunto i singoli i settori. Devo dire, oggi positiva Nexi più 1,87%, Terna più 1,40%, Enel più 0,80%, Era più 0,70%. Poi c'è il caso del non bancario, quindi lusso da un lato, ho visto Ferragamo oggi perdere un altro 3,70%, e anche il mondo del calcio, Juventus meno 5,22%. Sì, la Juventus che sono diverse sedute che sta accusando il peso dei ribassi, è sceso sotto quota 1 euro. Per quanto riguarda Ferragamo, un'altra meno 3,7%, il titolo è sotto i 14 euro, un titolo che fino a qualche anno fa valeva il doppio. Sicuramente il tema delle esportazioni nel sud-est asiatico, comunque del settore del lusso che è in crisi, pesa su Salvatore Ferragamo. Allora, migliori e peggiori della seduta oggi: Seri Industrial più 15,50, Ross più 8,20, Tesla più 7,70, Health Italia più 7,30%, fronte opposto, l'aeroporto Marconi meno 11,70, Isagro meno 10, Giglio Group meno 9,80, devo dire, insomma, titoli molto molto sottili. Grazie anche a Ciò Conni, in Radio Cori sulle 24 ore. Adesso parliamo delle misure economiche del tutto provvisorie, nel senso che lo stesso governo ha detto che dopo il decreto della settimana scorsa ci sarà venerdì un secondo decreto per stanziare risorse e per le misure e altre misure come il credito d'imposta per le aziende danneggiate, la riduzione di tasse, il sostegno al turismo e alla sanità, cassa integrazione in deroga, esoneri contributivi per i settori più colpiti, e poi si vorrebbe arrivare a un terzo intervento ancora più sistematico. Per ora, da quello che abbiamo visto, ci sono 3 miliardi e 600 milioni, quindi risorse straordinarie pari allo 0,2% del PIL, che saranno del tutto non sufficienti, ma come dicevo è la prima parte dell'intervento. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, partiamo dall'Europa. Mi chiede un ascoltatore: ma abbiamo capito qual è la linea dell'Europa in fatto di coronavirus? Nel senso che per ora ha detto saremo solidali con le richieste dei vari governi, lo ha detto il commissario degli affari economici Paolo Gentiloni, e ha detto attenzione, massima apertura anche alle richieste dell'Italia. Sul piano economico le nostre regole, le regole del patto di stabilità e crescita prevedono che in caso di circostanze eccezionali che non dipendono dai governi ma da circostanze esterne ci possano essere delle deviazioni dagli impegni di finanza pubblica. Questo è un chiaro caso di questo genere, quindi quando arriverà la richiesta del governo italiano penso che la Commissione europea la esaminerà con la massima apertura e disponibilità. È quello di cui c'è bisogno oggi, e di dare veramente un messaggio di solidarietà da parte dell'Europa a tutti i paesi europei e in particolare all'Italia, che ha in questo momento difficoltà maggiori. Questo mentre le stime di Nansen, per me le stime sono ancora molto molto premature, ed è molto prematuro farle, però dice che il REF, sono vari istituti di ricerca economica, vi potrebbe essere una contrazione del 10% nei primi due trimestri del 2020 in Lombardia e in Veneto, che vorrebbe dire un calo del 3% del PIL dell'intero paese. Io temo che il 10% sia un po' ottimistico, però è vero che vi sono dei settori che stanno guadagnando, farmaceutica, cura della casa, i servizi smart working, altri che manterranno le entrate invariate. Abbiamo appena avuto ospite il presidente di Centromarca, il mondo dei prodotti alimentari e comunque della grande distribuzione non dovrebbe, anzi, conoscere cali. E poi invece turismo, dove stiamo arrivando a dei livelli di disdetta che vanno tra l'80 e il 90%. Ringrazio il collega del Sole 24 Ore, Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera, buonasera a voi. Allora, dopo aver sentito Gentiloni, sentiamo anche il vice ministro Misiani, che ha detto la manovra da 3,6 miliardi verrà approvata entro questa settimana. Il governo ha annunciato una manovra da 3 miliardi e 6 che verrà approvata entro questa settimana. Siamo il primo paese europeo a farlo e stiamo affrontando con tutte le nostre possibilità un'emergenza che rischia di avere conseguenze negative anche per l'economia. Di quando nel 2008 ci fu la grande crisi economica, il primo decreto per affrontare i nodi economici venne emanato 75 giorni dopo Lehman Brothers con 32 milioni di euro. Noi lo facciamo 7 giorni dopo e con 3 miliardi e 600 milioni di risorse fresche. E poi invece i sindacati che hanno detto tutti assieme per l'emergenza sanitaria e economica, le risorse devono essere chieste fuori dal patto di stabilità. E il presidente Confindustria Boccia, che domani sarà ospite di Simone Spezzi e Maria Latella 24 mattina, ha detto ieri: attenzione, serve un grande piano transeuropeo da 3.000 miliardi. Non possiamo pensare ormai a un Green New Deal di 1.000 miliardi da spendere in 10 anni. Dobbiamo fare un'operazione totalmente diversa. Allora, qui c'è un'operazione italiana, sì, in cui noi dobbiamo usare tutte le risorse disponibili quanto prima per attivare infrastrutture e cantieri, cioè occupazione e lavoro, e la reazione dell'economia italiana per compensare l'effetto del rallentamento della domanda privata che ahimè avremo. La seconda è essere protagonisti di una stagione riformista europea in cui non andare a chiedere un po' di flessibilità per l'Italia, ma chiedere un grande piano infrastrutturale transnazionale tra paesi d'Europa, ma da 3.000 miliardi di euro, certo, ma da spendere in uno o due anni, non in 10 anni, quindi fare l'inverso, spenderli subito e finanziarli in 10-30 anni. Così appunto Vincenzo Boccia, ospite di Lucia Annunziata ieri su Rai 3. Allora, Gianni Trovati, è chiaro che insomma i 3 miliardi e 600 milioni fa bene, per carità, il vice ministro a ricordare che Misiani, che siamo il primo paese a farlo, ma sono poca cosa. L'obiettivo finale, il pesce grande come dicono gli americani, è chiaramente l'accordo con Bruxelles. Il pesce grande è chiaramente l'accordo con Bruxelles, comincerà mercoledì il lavorio, c'è appunto questa teleconferenza tra i ministri delle finanze dell'area euro, peraltro allargata anche ai paesi che nell'euro non ci sono, per cambiare l'impostazione di politica fiscale europea, perché è ovvio, e i 3,6 miliardi lo dimostrano, diciamo, in maniera abbastanza evidente, che le risorse nazionali, soprattutto in un paese ad alto debito come noi continuiamo a essere, possono, come dire, dare una mano a risolvere questa o quella parte più evidente dell'emergenza, ma non bastano sicuramente per far come dire, una cura in grado di fermare quelli che possono essere gli effetti sulla economia reale del paese. Infatti i 3,6 miliardi annunciati da Gualtieri sono, diciamo così, il limite massimo che le nostre povere finanze pubbliche al momento permettono di raggiungere. Oh, e non sono risorse aggiuntive, è deficit aggiuntivo. È deficit aggiuntivo, certo. Che è leggermente diverso, sono 2 decimali di PIL, anche perché al momento, come dire, sarebbe strano aprire, diciamo così, un confronto con l'Europa che sta iniziando proprio in queste ore, in questi giorni, a rimeditare sulla propria politica fiscale, perché, come dicevi correttamente tu, le stime che stanno girando sugli effetti dell'emergenza sull'economia reale sono stime parziali, premature, non ci sono proprio elementi minimi solidi su cui basare delle stime, ed è molto probabile che le analisi che poi si succederanno nel corso delle settimane colorino sempre più di tinte fosche, diciamo così, i numeri sull'economia italiana. Quindi quello che è atteso è l'inizio di una cura che deve essere necessariamente, indispensabilmente europea, anche perché far franare un'economia nazionale come quella italiana all'interno di un quadro che già pre-coronavirus in Italia e in Europa era quello di rallentamento, naturalmente l'effetto domino sulle altre economie europee è facile da prevedere. Ecco, vengo anche, mi richiamo le parole del presidente di Confindustria Boccia, che diceva: attenzione qua, però, siccome avremo con estrema probabilità un calo degli investimenti privati, cioè le imprese singole, l'unico modo per contrastare un calo degli investimenti privati è avere un piano di carattere infrastrutturale da realizzarsi in un tempo breve, finanziato dall'Europa. L'ex ministro Tremonti in un'intervista diceva: qua è il momento di far partire gli eurobond, cioè le obbligazioni di carattere europeo, magari vincolandole ad alcuni progetti, penso appunto a progetti infrastrutturali. E io aggiungo invece, sull'Italia è anche il caso di fare partire o avanzare alcuni progetti con decreti speciali. Secondo te si potrà gestire tutto all'interno, diciamo, delle regole del patto, sì, un po' più di flessibilità, o se l'epidemia dovesse diffondersi in maniera più consistente in Francia e Germania, non che io lo voglia, ma sto ipotizzando, il tema è veramente arrivare a un piano straordinario di interventi, non semplicemente qualche limatura di decimale sul deficit. Il tema è quello, anche perché va ricordato ancora una volta che c'è un'altra condizione pre-coronavirus che stava maturando, cioè il progetto, l'avvio del progetto della Commissione europea di revisione delle regole del patto di stabilità e crescita. Naturalmente non c'è nessun tipo di accordo fra i paesi all'interno dell'Unione, ma questo è uno dei compiti istituzionali principali espliciti della Commissione nuova, che la stessa Presidente della Commissione ha annunciato nel suo programma al Parlamento. Ci sono documenti, c'è lo European Fiscal Board che ha già depositato una proposta di revisione del patto. Naturalmente bisogna distinguere l'emergenza e la ripresa. Le politiche per gli investimenti, anche quelle italiane, sono abbondantemente finanziate, ma in Italia in particolare stentano, diciamo, poi a decollare sul piano pratico per altri tipi di problemi burocratici, processuali, eccetera, eccetera. Però anche al di là di quello, l'investimento richiede tempi medio-lunghi, e quindi è il tema della ripresa, ma non è il tema della stretta emergenza. Sì, qualcuno mi dice: la settimana scorsa parlavate di denunce per procurata d'allarme e chiedete scusa. No, guardate, ne parlava la FIPE, quindi i responsabili degli esercizi pubblici, che voleva denunciare le varie autorità per procurata d'allarme. Invece qualcuno mi dice: ma dovremmo investire in ospedali? Anche qui, guardate che sbloccare gli investimenti infrastrutturali non vuol dire non costruire gli ospedali, sono anche quegli investimenti. Noi abbiamo ridotto di circa il 10% la capienza in tutti i reparti di rianimazione e di terapia intensiva. Le due cose non si escludono, certo che poi sarebbero investimenti vincolati ad alcuni progetti specifici. Per concludere, Gianni, ma che possibilità ci sono che questo passi? Adesso lo voglio dire in maniera un po' cinica, ma tanto secondo me, se il problema non diventerà completamente europeo, anche la solidarietà non sarà completamente europea. Questo non c'è dubbio, ma i numeri e le caratteristiche della diffusione, sono cinico anch'io, dei contagi in questi giorni stanno dicendo che è molto complicato, insomma, ipotizzare appunto geografia dei contagi non si diffonda. E poi c'è un tema economico evidente, cioè quello che dicevamo prima: l'Italia è interconnessa strettamente all'economia europea e prima di tutto all'economia tedesca. Non è che l'Italia va in crisi e gli altri proseguono come prima, è un effetto, diciamo, sistemico, un po' come quando c'è una banca che salta, no? Se la banca è abbastanza grande, c'è un intervento di sistema, perché si rischia l'effetto domino, certo. L'effetto domino su tutto il sistema. Lo stesso accade con l'economia italiana, e quindi è verosimile che qualche forma di aiuto e di allargamento, ricordiamoci che in parte è anche già previsto dalle regole europee, perché quando la crescita rallenta drasticamente per una esigenza di quello che sta accadendo, anche le regole europee hanno al loro interno dei meccanismi di aggiustamento. Bastano? Certo che no, però sono un inizio per avviare quello che verosimilmente sarà un allargamento parziale degli spazi fiscali dei paesi europei. Allora vedremo, adesso teniamo appunto venerdì il secondo decreto e poi quello più sistemico, e appunto come Gianni Trovati ricordava, intanto mercoledì vi sarà un primo vertice, oltre che dei G7, anche per fare il punto di carattere europeo. Grazie anche a Gianni Trovati. Qualcuno mi chiede un piano Marshall. Beh, sì. Beh, sapete, quando si parla poi di 3.000 miliardi o di Eurobond, non dico piano Marshall, ma ci si va vicini, e non c'è nulla di male. Comunque noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.